Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di quello che sta trapelando, diciamo, sull'architettura della richiesta italiana per il recovery plan, quindi per il recovery fund. Perché lo dico? Perché la struttura definitiva, il dettaglio delle richieste e dell'articolazione delle richieste arriverà a inizio gennaio. Però entro il 15 ottobre, come abbiamo chiarito più volte, il governo vuole presentare la cosiddetta impalcatura generale, la cornice, come l'ho chiamata io. E allora domani, oggi ci sono delle bozze che sono arrivate alle regioni e agli enti locali in vista del confronto, ma soprattutto domani vi sarà la riunione del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, che dovrebbe mettere sostanzialmente il timbro politico a questa, appunto, impalcatura generale. Da quello che si è capito, ma ne parleremo nella seconda ora del programma, avrà quella che Gianni Trovati ha definito la doppia sestina, cioè sei pilastri, così. Da un lato, quindi sul fronte investimenti, i sei pilastri sono la transizione digitale, le infrastrutture, la decarbonizzazione, l'inclusione sociale, la salute e la formazione, che vuol dire, appunto, dal sistema sanitario fino, appunto, all'istruzione e alla ricerca universitaria. Poi vi è un'altra sestina, chiamiamola così, di riforme, quindi riforme della pubblica amministrazione, della ricerca, della formazione, del fisco, della giustizia, del lavoro. È chiaro che il grosso dei soldi che l'Europa darà, l'Italia ha diritto a circa 208 miliardi, di cui 81 di trasferimenti, quindi a fondo perduto, e 127 di prestiti agevolati, che vanno comunque restituiti. È chiaro che la parte che dovrebbe assorbire le risorse è la prima parte della sestina, la prima sestina. Non che le riforme non abbiano dei costi, pensiamo a una riforma fiscale, spesso è difficile farla a costo zero, però. Ma il governo ha chiarito più volte, lo ha fatto anche il commissario europeo, che i soldi europei non possono essere utilizzati per la riduzione fiscale. Altra cosa, come ha ricordato ieri il ministro Gualtieri, che le risorse che vengono liberate dal fatto che arrivino soldi europei per quegli investimenti possano essere utilizzate come risorse nazionali, però non come risorse europee, per una ridefinizione del fisco. Ne parleremo, questo alla luce anche del cosiddetto quadro macroeconomico, che vado subito a ricordare, anche perché, da quello che abbiamo capito, ha influenzato anche le borse oggi. Allora, che cosa è successo? Sostanzialmente c'è una nuova stima di Bruxelles sull'andamento dell'economia dell'Unione Europea 19 nel secondo trimestre, e purtroppo è rivisto al ribasso, meno 11,8% nell'area euro, meno 11,4% rispetto al trimestre precedente. È di gran lunga il calo maggiore dall'inizio delle serie temporali, quindi dal 1995. Per quello che riguarda invece, per quello che riguarda l'Italia, il dato rispetto al trimestre precedente, il secondo trimestre dell'anno, è meno 12,8% il dato sul trimestre, mentre su quello che dovrebbe essere la chiusura del 2020, le ultime stime citano un meno 10%. Il governo ieri abbiamo ascoltato Gualtieri, tende a escludere che vi sia un calo a due cifre. Dopodiché, parliamoci chiaro, se sarà meno 10 o meno 9,5 cambia poco, cioè il dato sarà comunque drammatico, di un crollo del PIL mai visto nel nostro paese anno su anno. Il dato di oggi si accompagna anche a un dato brutto sull'occupazione nell'area euro, che è calata del 3% rispetto al trimestre precedente. Anche in questo caso è il calo maggiore dall'inizio delle serie temporali del 1995. Le diminuzioni più marcate si sono avute in Spagna, meno 7,5%, Irlanda meno 6%, Ungheria meno 5,3%. L'Italia ha fatto un meno 2,5%. Attenzione, perché però, come abbiamo ripetuto molte volte, c'è anche il blocco dei licenziamenti, e questa sarà la vera incognita poi dell'autunno. E il commissario europeo Gentiloni commenta queste cifre dicendo dimostrano quanto forte sia l'impatto della crisi sul fronte occupazione. Io temo che purtroppo sia ancora un impatto parziale, almeno in Italia. E lì non devi essere un grande economista per capire che quando arriverà lo sblocco dei licenziamenti nel settore privato il dato andrà a peggiorare. Probabilmente il problema sarà di quanto andrà a peggiorare, cioè se nel frattempo vi sarà stata una ripresa economica che consenta di limitare poi il peggioramento dei dati sull'occupazione, o invece verrà tutto scaricato a ottobre e novembre, cioè se nel frattempo invece qualcosa è ripartito e permetterà alle imprese, diciamo, di mantenere il più possibile il perimetro occupazionale, come si chiama in gergo. Per quello che riguarda il Recovery Fund, oggi il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis ha detto devono i paesi devono puntare a utilizzare quei soldi per le riforme e per gli investimenti. Devo dire che in questo le bozze del piano, dell'architettura che annunciavo italiana vanno in questa direzione, 6 misure sugli investimenti e 6 misure sulle riforme. E per quello che riguarda il recovery, sempre Dombrovskis ha detto occorre che parta il prima possibile e poi che l'Europa monitorerà che il denaro venga speso in linea con le raccomandazioni specifiche per paese nel semestre europeo. Quindi le priorità europee restano confermate, anche perché noi le continuiamo a chiamare recovery fund, ma in realtà è all'interno del pacchetto Next Generation, quindi cioè come creare le condizioni economiche per le generazioni anche future dell'Unione Europea. E dicevo, Dombrovskis ha ricordato come l'Europa ha individuato come priorità gli investimenti verdi, quelli digitali e i transfrontalieri. Comunque vi torneremo su questo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Gli altri temi di oggi riguarderanno non solo appunto la bozza, diciamo, delle richieste e del piano italiano e lo scenario macroeconomico in questo momento, riguarderanno anche, continueremo l'intervista iniziata ieri con chi ha creato un campus di ricerca unico in Europa, mi riferisco a H-Farm, e quindi com'è difficile in questo contesto promuovere ricerca, innovazione, start-up. E dall'altro chiaramente anche sulla borsa, perché la borsa prende atto anche di altri dati macroeconomici che adesso ricorderò, ma che non riguardano solo l'Italia, sono tutte negative, -1,5% Parigi, l'America ieri chiusa per il Labor Day, oggi perde l'1,40%, Londra è tra le migliori, -0,46%, Francoforte -0,80%, Milano -1,60%. E il petrolio oggi ha fatto un tonfo dell'8%, è sceso a $36,5 il barile. Allora c'è la sensazione, chiaramente le borse hanno viaggiato e stanno anche viaggiando per alcuni versi in maniera scollegata da quella che è la realtà economica che sta emergendo come effetto del Covid. I motivi li abbiamo analizzati più volte, uno su tutti: c'è una grandissima liquidità in circolazione, i tassi sono a zero, sono ai minimi storici in tutte le maggiori economie occidentali, il quantitative easing europeo e in parte anche quello americano continuano a pompare liquidità e mantenere i tassi di interesse bassi anche nelle emissioni obbligazionarie. È chiaro che questa liquidità tende ad andare anche sul mercato azionario. Dico anche perché è interessante quello che è venuto oggi al Ministero del Tesoro con l'emissione di 10 miliardi di BTP a 20 anni, che vuol dire cercare investitori che prestino soldi all'Italia per 20 anni, certo che lo puoi vendere nel frattempo, che non è un periodo brevissimo, visto, diciamo, l'orizzonte, quanto si è accorciato l'orizzonte temporale con il Covid. Allora, il Tesoro ha collocato tutti i 10 miliardi con scadenza 2041, ma la cosa interessante, a mio avviso quasi impressionante, è la domanda. La domanda è stata più di 8 volte superiore, 84 miliardi la domanda, il che vuol dire che c'è una fame, passatemi il termine, sia negli investitori istituzionali, ma probabilmente anche in molti investitori retail, come si chiamano in gergo, cioè investitori privati, di collocare questi soldi a costo, diciamo, di avere un rendimento basso. Infatti la scadenza è 3 gennaio 2040, ripeto, 84 miliardi di euro, mentre il 10 settembre il Tesoro offrirà in asta BTP a 3-7 anni per un ammontare complessivo di 6 miliardi e 250 milioni. E poi, questo è il 1 marzo 2041, l'emissione del BTP è stata affidata a Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa San Paolo, JP Morgan e quant'altro. E poi, insomma, la scadenza del 1 marzo 2041. La cosa interessante sul mercato, appunto, è la richiesta fortissima, 84 miliardi. Questo nel giorno in cui però Fitch, l'agenzia di rating, ha abbassato la stima per l'Italia sul 2020, in realtà l'ha portata a un meno 10%, che è la stima di molti economisti, di molte agenzie e società di analisi, che dovremmo chiudere con un meno 10% quest'anno. Il governo ha ancora una stima più bassa. 349, dicevo, 238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo subito con le altre notizie in breve. Allora, mi dice un ascoltatore: Barisoni, per favore spieghi che la domanda così alta è grazie al fatto che l'Italia appartiene all'Unione Europea e all'Euro, altrimenti saremmo già falliti. Ma ha ragione. Spero che almeno in chi ascolta questo programma la cosa sia abbastanza chiara, cioè che se noi fossimo fuori dall'euro, fuori dall'Europa, non avremmo la tutela della Banca Centrale Europea, che si è mossa, devo dire, abbastanza velocemente, con un piano anche di monstri, di quantitative easing, di acquisto di titoli di Stato, stampando, diciamo, moneta, mantenendo lo spread italiano basso, non avremmo lo scudo del Recovery Fund, non avremmo avuto anche il meccanismo SURE per l'iniziativa in materia di mercato del lavoro, quindi cassa integrazione, non vi sarebbe la BEI, e so che qualcuno qui storcerà la bocca, non avremmo neanche la possibilità di accedere al MES, cioè sarebbe un disastro vero e proprio per un paese col debito come il nostro. L'ho ricordato, spero che sia ormai abbastanza acquisito, almeno negli ascoltatori di questo programma, quanto importante sia in questo momento far parte A dell'Europa, B dell'Euro. Veniamo al dicevo di Fitch, che porta le stime per quest'anno a meno 10%, ha alzato la previsione di crescita sul 2021 del nostro PIL al 5,4%, che comunque, come si capisce, sarà una ripresa molto forte, ma meno della metà di quanto secondo Fitch perderemo quest'anno. E poi Fitch stima anche un tasso di disoccupazione all'11,4% quest'anno, in salita l'anno prossimo all'11,7%. Sappiamo purtroppo che la disoccupazione è una cinghia di trasmissione più lenta, cioè l'economia va male e poi inizia a trasferirsi questo sull'occupazione e sulla disoccupazione. Mentre prevede Fitch una ridiscesa della disoccupazione al 10% nel 2022. Dati macroeconomici italiani, dicevo. Allora, il dato sul commercio nel mese di luglio. Allora, rispetto a giugno, meno 2,2% in valore, meno 3,1% in volume. Su base tendenziale, quindi rispetto all'anno prima, il commercio a luglio ha fatto meno 7,2% in valore, meno 10% in volume. Cosa ha pesato in negativo? Soprattutto i beni non alimentari, meno 11,6% in valore. E qui attenzione, c'è un crollo delle vendite dell'abbigliamento, vabbè, anche la pellicceria, ma non era una grande stagione per la pelliccia, ammesso che uno voglia usare la pelliccia, ma insomma, meno 28% l'abbigliamento rispetto a luglio del 2019, e questo è inutile girarci attorno, è frutto anche, per carità, delle difficoltà economiche, ma anche di un mercato del lavoro in cui lo smart working per il mondo dei servizi è ancora predominante, e l'abbiamo spiegato in tutti i modi possibili. È chiaro che più lavori da casa, e se a questo aggiungi l'assenza quasi totale di eventi, dagli eventi fieristici agli incontri di lavoro, a eventi di promozione e quant'altro. È chiaro che questo si sta ripercuotendo anche sul mercato dell'abbigliamento. Il ragionamento è molto semplice: se uno non ha bisogno di avere un'attività pubblica o è ridotta al minimo, tende anche ad avere meno bisogno di acquisti nel settore dell'abbigliamento. Il commercio elettronico invece è in forte crescita, più 11,6%, e andando nello specifico, le vendite sono nei primi 7 mesi sono crollate le vendite a dettaglio dell'8,5%, ma quelle online hanno fatto più 28,5%, a dimostrazione che il lockdown, e questo era ovvio, ma anche il continuo smart working, voi sapete come la pensa il sottoscritto su un così, su questa adesione apodittica, non critica, non ragionata sullo smart working, sta beneficiando solo Amazon e Jeff Bezos. Appunto, i dati sulle vendite online, poi magari non sarà solo lui, ci sono altri soggetti, ma insomma sappiamo chi guadagna, chi ha la parte del leone in questo settore. Appunto, più 28% le vendite online. Andando invece, restando sul mese di luglio, l'abbigliamento ha fatto meno 28%, meno 17% gli articoli in cuoio e le calzature, gli articoli in cuoio e gli articoli da viaggio. Gli utensili per la casa e le ferramenta invece hanno fatto più 3,2%, è l'unico dato anche a livello anno su anno positivo. Rispetto al trimestre precedente, il trimestre maggio, giugno e luglio, ha avuto comunque una crescita delle vendite, più 12%, ma siamo ancora, ripeto, sotto del 7% rispetto a un anno prima. Il segno positivo sono le vendite dei beni non alimentari rispetto al trimestre precedente, più 27%. I beni alimentari rispetto al trimestre precedente diminuiscono un po', meno 1,8%, ma questo perché nel trimestre precedente si potevano comprare praticamente solo i beni alimentari a livello di commercio al dettaglio. Ma insomma, il dato complessivo è che c'è un calo forte nel commercio rispetto a un anno prima, meno 7%, e che è dovuto in primis al crollo verticale, meno 28%. Stiamo parlando di luglio, quindi i negozi erano ampiamente aperti, non si può più dire che è colpa del lockdown. Meno 28% sul luglio del 2020 il mondo dell'abbigliamento. Allora, vedo alcuni che mi dicono è colpa dell'euro se siamo in questa condizione, se il nostro debito è aumentato. Io non so, la gente, come si fa a dire che è colpa dell'euro, dell'Europa, se avremo un debito più basso? Guardate che il debito italiano, se prendete le serie storiche, l'abbiamo imbarcato nei mitici anni 90, anche dagli anni 80 in poi. Cioè, non è colpa dell'euro se abbiamo il debito che abbiamo, Andate. Poi non ho capito perché dovremmo stare meglio se fossimo, faremmo come la banca, come gli USA, senza aspettare il 2021, si stamperemo moneta. Guardi, lei può stampare tutta la moneta che vuole, il problema è il valore che poi ha questa moneta, che c'è di solito un legame tra la moneta e l'economia che essa rappresenta. Più stampa moneta, oltre che creare inflazione, più, voglio dire, abbassa anche il valore di concambio della moneta stessa. Cioè, lei può stampare le vecchie lire quanto vuole, il problema è poi quanto valgono queste lire quando andiamo a comprare beni sui mercati internazionali, perché li dobbiamo comprare in dollari o in yen o in yuan o in euro. Qui attenzione, vabbè. Andiamo invece all'incontro ieri. Una volta era un po' più critico, mi scrive un ascoltatore, riguardo all'Europa e all'euro. No, all'euro mai, all'Europa sì, ma voglio dire, solo gli stupidi non cambiano idea al mutare delle circostanze esterne. L'Europa, e poi la chiudo, della gestione Merkel del 2012, 2011, 2013, cioè quella della Grecia e dell'attacco poi speculativo che ha generato quell'atteggiamento che non necessariamente un paese deve stare nell'area euro, quell'Europa lì l'ho sempre criticata, era un'Europa ragionieristica dei paesi che pensava solo al patto di stabilità, solo a questo maledetto 3%, 2,9%, 2,8%, non si occupava di crescita del mercato interno. L'attrazione tedesca e anche olandese faceva sì che fosse importante solo esportare e che i singoli paesi avessero solo l'obbligo di tenere i conti sotto controllo. Non c'erano piani di investimento comuni in Europa, non c'era un debito mutualizzato, non c'era niente. C'era solo l'ossessione tedesca per l'inflazione e per il deficit. L'Europa di adesso, quella che ha visto in Angela Merkel anche un cambio di rotta, è un po' diversa. Guardate che insomma il recovery plan è la prima volta in cui l'Europa accetta di mutualizzare in parte, di andare a raccogliere 750 miliardi di euro sul mercato come Europa, non come singolo paese. E già citavo il piano Sure e la BEI, la Banca Centrale Europea, che si è mossa molto bene a mio avviso. Per cui uno cambia idea se cambia l'atteggiamento europeo. Ora, definire l'Europa di adesso ragionieristica e tutta legata all'austerity come quella del 2012-2013 sarebbe una falsità ideologica. Poi se uno sta sulle balle dell'Europa, io non cosa ci posso fare. Dicevo, l'incontro del Presidente Confindustria e dei sindacati ieri sul tema dei rinnovi contrattuali, un incontro interlocutorio, un primo incontro. Il Presidente Confindustria Carlo Bonomi lo ha definito comunque utile e si è definito ottimista sul percorso che è iniziato. Un incontro che definirei utile, primo approccio nel quale Confindustria ha ribadito la volontà e la necessità di passare dai contratti di lavoro quale strumento per ridisegnare l'industria e l'impresa del futuro. Una notizia penso positiva è quella che stiamo facendo tutto il possibile affinché nel breve tempo possibile si possa arrivare alla firma del contratto della sanità privata. Ritengo che sia un passaggio molto importante, un segnale molto importante. Abbiamo discusso del patto della fabbrica, sul quale abbiamo condiviso tutto, tutti abbiamo condiviso il tema che è l'impianto giusto sul quale portare avanti le relazioni industriali. Non vi nascondo ovviamente che ci sono alcuni punti che devono essere ancora chiariti tra di noi, sono punti necessari affinché si possa poi arrivare anche qua nel più breve tempo possibile a sbloccare tutta una serie di rinnovi contrattuali, tra cui il primo è quello degli alimentaristi. Quindi sono da imprenditore ottimista, è iniziato un percorso oggi, un percorso che deve essere un segnale al paese e un segnale anche alla politica. Abbiamo necessità di parlare di rinnovo di contratti, ma anche di ammortizzatori sociali, di politiche attive del lavoro. Fra un po' avremo necessità anche di parlare di pensioni. Come sapete, Confindustria ha presentato tante proposte al riguardo. Non abbiamo ancora ricevuto risposta, ma credo che insieme ai sindacati si possa costruire quel percorso affinché il Paese possa avere un segnale di fiducia, e lo sottolineo, il segnale di fiducia è importante perché il Paese ne ha assolutamente bisogno. E poi sempre il Presidente Confindustria Bonomi ha aggiunto che occorre anche ripensare alla tassazione, una riforma organica. Questo Paese non può pensare che sia la tassazione del lavoro, del mercato del lavoro, a mantenere tutto il resto. Dobbiamo avere il coraggio di pensare alla tassazione anche in altri comparti. Del resto l'Europa più volte ci ha fatto notare che l'Italia è sbilanciata, cioè si tassa moltissimo il lavoro e si tassano meno altri consumi, e aggiungo io anche alcune rendite di posizione. Ma andiamo avanti, perché i sindacati, allora il segretario della CGIL Maurizio Landini ha detto che l'incontro è stato positivo, anche se ci sono dei temi su cui restano delle difficoltà. Il segretario della CISL Anna Maria Furlan ha detto bene che il presidente Bonomi si sia assunto la responsabilità di agevolare il rinnovo del contratto della sanità privata. E poi c'è la conferma del patto della fabbrica, e ritengo importante perché c'è la volontà di definire e esercitare anche la contrattazione. Il Presidente si è assunto la responsabilità di agevolare, aiutare, sostenere il rinnovo finalmente della sanità privata. Oltre alle nostre confederazioni, anche Confindustria esprime positività e necessità nel rinnovo di quel contratto. Riteniamo che sia assolutamente una buona notizia. Io aggiungo frutto anche della capacità di mobilitazione dei tanti lavoratori e delle tante lavoratrici della sanità privata che da ben 14 anni non vedevano rinnovato il loro contratto. Allora, adesso andiamo sul meteo e la pubblicità, poi alcune dichiarazioni del ministro Azzolina e del ministro all'università Manfredi, e parliamo anche di fare innovazione e formazione in questo periodo difficilissimo. Vedo che qualcuno continua a dilettarsi sul il fallimento dell'Europa, dell'area euro, la bestialità nell'essere in Europa. Mi scrive: dovete andare un po' a scuola di economia. Vabbè, se mi dà l'indirizzo di sta scuola adesso ce lo segniamo, intanto andiamo sul meteo. State ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. Focus Economia. Allora, al di là dei così degli insulti che arrivano per aver difeso questa roba, vabbè, c'è qualcuno che non va mai bene niente, parliamo della scuola. Allora, manca meno di una settimana, avete ascoltato anche il promo sul il Radio Day che faremo la settimana prossima, lunedì, tutto il giorno nei nostri GR principali, gli aggiornamenti su come sta andando la riapertura in realtà, una riapertura di alcune regioni, altre hanno già riaperto, altre riapriranno più tardi, però... Il ministro Azzolina oggi al Senato, dopo aver ricordato che ci sono quasi 3 miliardi per la ripartenza che di settembre stanziati, la stagione dei tagli è finita, e che sono stati erogati agli enti locali 500 milioni di cui 330 per l'edilizia leggera e 30 milioni sull'edilizia scolastica, finanziando quasi 6.000 enti. Ha detto: i concorsi a ottobre li avrei voluti prima. Allora, sui concorsi bisogna capirci su questo. Gli insegnanti, per andare a ruolo, essendo un insegnante di Stato, devono fare concorso. Cioè, anch'io li avrei voluti prima, onestamente, i concorsi. E poi ha detto: sui banchi ho sentito parole surreali e corbelleie. Abbiamo bandito 78.000 posti per assumere nuovi insegnanti. Li espleteremo già a partire dal prossimo mese di ottobre per riattivare una macchina concorsuale ferma da troppo tempo, con grave danno per la scuola che senza concorsi non ha tutti gli insegnanti di cui ha bisogno a tempo indeterminato. Come noto, avrei voluto farli prima, ma ci siamo quasi. Saranno concorsi che valorizzeranno l'esperienza dei docenti con più annualità di servizio alle spalle. Al contempo permetteranno ai giovani che vogliono cominciare a insegnare e che da diversi anni attendono queste procedure di cimentarsi e ottenere l'agognato ruolo. Ho letto diverse corbellerie in queste settimane. Un dibattito quasi surreale su questi banchi. Cifre date a caso, anche rispetto ai costi. Ho letto che il governo sta sprecando denaro sulla scuola. Credo che ogni singolo euro speso per la scuola non sia perduto, ma costituisca invece un investimento per il futuro dell'Italia. Allora, questa mattina ospite a 24 mattino con Simone Spezia, il ministro Manfredi, ministro dell'università, che ha detto che l'università partirà con un sistema misto in presenza e in distanza, e questo insomma l'avevamo in parte intuito. La cosa interessante mi sembra però un altro passaggio dell'intervista. Manfredi ha fatto notare come ci sia una tendenza a restare, a fare le università nelle proprie regioni. Noi sappiamo che si veniva da anni e anni di grande flusso, diciamo così, migratorio da sud a nord, anche di carattere universitario per la formazione. E ha detto: stiamo registrando un aumento delle immatricolazioni degli studenti proprio nel mezzogiorno. Guardi, noi eravamo estremamente preoccupati che, come era avvenuto dopo la crisi del 2008 e del 2012, ci fosse una significativa riduzione delle iscrizioni. Devo dire, e questo lo dico con soddisfazione, che i segnali che noi abbiamo in tutta Italia sono segnali invece di una forte scelta imposte alle famiglie. E poi anche perché le politiche che abbiamo messo in campo come governo di forte sostegno al diritto allo studio, riduzione delle tasse, aumento delle borse di studio, evidentemente sono state efficaci e stanno dando delle risposte molto importanti. Quello che si nota è che questo riguarda con riferimento alle matricole, perché in genere chi è già iscritto all'università sta al secondo o terzo anno, è difficile che si sposti, perché significa cambiare docenti, cambiare luoghi, insomma è molto complicato. Sulle matricole invece notiamo che c'è un po' una distribuzione un po' diversa, perché alcune giovani che prima cambiavano regione per poter studiare adesso tendono a stare più nella regione di appartenenza, probabilmente per il timore dello spostamento, per la preoccupazione delle famiglie. Questo riguarda soprattutto per i diciottenni immatricolati, però diciamo non sono fenomeni estremamente rilevanti, perché le immatricolazioni tengono in tutte le regioni d'Italia. Restiamo in tema di formazione, perché ringrazio di nuovo, ieri siamo solo riusciti a iniziare l'intervista, il presidente e fondatore di Edge Farm, Riccardo Donadon, per averci raggiunto in collegamento. Buonasera Donadon. Buonasera. Allora, Edge Farm è nata nel 2005, ha investito 28 milioni di euro in 120 start-up negli anni ha investito in tutto 101 milioni, ha 600 persone distribuite in 4 sedi sul territorio italiano ed è quotata dal 2015 nel segmento AIM della borsa italiana. Voi lavorate su tre aree: innovazione, educazione e investimenti. Avete un fondo attivo da 101 milioni di euro, che è quello che vi permette poi di avere la disponibilità finanziaria, e praticamente siete partiti ieri con l'inaugurazione di quello che è il più grande polo di innovazione europea, se ho ben capito, 1 miliardo di studenti, e accoglierà imprenditori e professionisti, 30.000 metri quadrati in una struttura, superficie coperta di 30.000 metri quadrati con 10 nuove strutture dedicate. In realtà la struttura complessiva di una donna è ben più grande di 30.000 metri quadrati? E faccio anche una correzione sul tema del fondo, nel senso che noi fondamentalmente abbiamo questa struttura molto grande che è stata realizzata grazie ad un fondo che è stato fatto da Cattolica Assicurazioni e Cassa Depositi e Prestiti, e noi siamo un inquilino, per cui noi abbiamo conferito tutti gli immobili che avevamo costruito nel tempo a questo grande fondo, che adesso ce li ha ritornati come inquilini, e per i prossimi 30 anni noi siamo ospitati dentro queste strutture, quindi non siamo noi quelli del fondo. Però 51 ettari la superficie complessiva, ricordo bene. Sì, sono più di 50 ettari. 244 posti letto per gli studenti, no? Perché è un campus. Ci sono 244 posti letto all'interno e poi ci sono tante foresterie all'esterno, e sono più di 50.000 metri quadri di superfici tra quelle che abbiamo inaugurato ieri e quelle che avevamo già prima. Quindi è un parco decisamente importante. E voi lì fate innovazione, quindi le start-up, investimenti, ma anche educazione. Allora le chiedo, soprattutto sul fronte della formazione, visto che sono 1.000 gli studenti, più o meno? Sì, sulla parte scolastica siamo a 900 e qualcosa, sulla parte universitaria, perché abbiamo anche la parte universitaria, stanno crescendo rapidamente, siamo attorno ai 500 studenti adesso. Allora, la domanda che era rimasta in evasa ieri è un po' articolata, nel senso che come si fa a fare formazione di quel livello poi, e quindi anche poi finanziare la startup in un periodo in cui, come dicevamo ieri, l'orizzonte temporale si è accorciato brutalmente, si naviga a vista con un piccolo cabotaggio, ma è difficile capire dove andremo a marzo. Già marzo dipenderà dall'evoluzione di questo autunno, di come sapremo gestire il Covid, se vi saranno o no locali chiusure di nuovo, se, quando arriverà il vaccino, come continueremo a coesistere con il virus, e soprattutto, aggiungo io, dal punto di vista economico, quali mutamenti saranno non congiunturali, non di emergenza per fronteggiare il Covid, ma diventeranno poi strutturali, dallo smart working a tutto un insieme di scelte. Ieri parlavamo addirittura dell'abitazione, di quanto potrebbe cambiare la scelta del luogo in cui vivere. Ecco, come si fa a fare formazione con un mondo che è indefinibile, altro che liquido, ma soprattutto indefinito? Guarda, allora, dal punto di vista della formazione lo si fa preparandosi a quello che può accadere. Quindi noi con Farm oggi abbiamo un sistema di formazione che, oltre ad insegnare l'utilizzo del digitale, i contenuti del digitale, ad affiancare alle ore tradizionali di un percorso di International Baccalaureato, queste cose qui, lo fa anche con gli strumenti. Siamo da tanti anni adesso una Apple Distinguished School, abbiamo tutte queste lavagne digitali e gli insegnanti fanno la lezione già su una lavagna digitale, su un grande schermo, che se domani mattina dovesse succedere di nuovo che si crea una situazione di emergenza sanitaria, immediatamente si riflette sugli iPad, sui computer dei ragazzi, come se non fosse accaduto niente, solo che si spostano da una location all'altra. Quindi stiamo facendo tutto. No, ma questo riguarda la parte, diciamo, organizzativa. Mi interessava di più quella che era la parte più complicata, che formazione riuscite a dare. Lo dico perché voi avete come obiettivo appunto creare nuovi modelli di impresa o trasformare alcuni modelli di impresa, ma anche l'educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale, no? Però il problema più grosso che voi state affrontando in questo momento, al di là della parte logistica, che chiaramente è un problema per tutte le scuole e tutti i centri di formazione in Italia, qual è da un punto di vista più didattico che logistico? Guarda, dal punto di vista didattico, sicuramente oggi l'emergenza sanitaria ha posto davanti agli occhi di tutti l'urgenza della comprensione e della consapevolezza di questi strumenti. Per cui quello che noi stiamo facendo oggi è alzare ulteriormente il livello di quella che erano la dimensione di formazione che noi facevamo sui nuovi strumenti, sull'economia digitale, su queste cose qui. Perché le aziende, l'abbiamo visto adesso con i primi 70 che abbiamo laureato quest'anno, sono estremamente interessate ad assumere o comunque ad avere con loro questi giovani che escono da questi percorsi, perché devono accelerare, e quello lo vediamo dal lato nostro del mercato, in modo repentino qualsiasi tipo di intervento sulla loro struttura di processi per implementare il digitale nel modo migliore. E questi ragazzi che escono, che sono preparati su queste cose qui, hanno anche in dote il fatto che sono in grado di leggere questo cambiamento nel modo più spontaneo possibile, perché loro sono sono nativi digitali, certo. Sono non c'è nessun mondo nuovo, è l'unico mondo che hanno sempre conosciuto, a differenza, esatto, del sottoscritto. Se gli dai gli strumenti dell'economia, se gli dai gli strumenti per comprendere il mercato, e noi cerchiamo di darglieli nel miglior modo possibile, proprio tenendoli a stretto contatto con quello che è il mondo dell'impresa che qui gira in continuazione, per fargli leggere quello che vuole realmente il mercato, perché dopo quello loro non lo possono capire finché non conoscono realmente il cliente, non capiscono cosa vogliono. Senta, Donadò, mi dica un'ultima cosa, visto che voi da 15 anni che fate questa attività, l'errore più comune che fanno gli studenti, cioè, nell'ottica, insomma, quello che lei potesse fare un appello, dire attenzione a non fare questo errore, è l'errore che vede più frequente da parte invece delle imprese? Ma allora, le imprese, parto da loro, che è più facile, è sottovalutare l'impatto di questa cosa qui, del digitale, e non investire quello che è giusto. E poi non lavorare sul tema della formazione delle persone all'interno, perché fare un progetto digitale high-end, dove metti l'azienda al massimo livello di digital transformation, senza però lavorare sulle risorse umane in modo che veramente cambino i loro processi di fare le cose, non serve a nulla, perché dopo, terminato il momento di primo utilizzo di queste piattaforme, i processi che funzionano da sempre ritornano a prendere il sopravvento e finisce tutto. Beh, insomma, è come dare una macchina nuova, insomma, a uno che è abituato a guidare col manuale, gli dai una macchina automatica, cioè devi insegnargli anche come guidarla sta macchina, sennò torni ad applicare le vecchie logiche, no? Questo è sottovalutato, cioè è importantissimo portarsi tutta l'azienda a bordo di un progetto digitale, non bisogna solamente annunciarlo, e quello è un grande tema. Sui giovani questa cosa qui è invece importante dal punto di vista del matchare la loro spinta, la loro energia, far incontrare, diciamo, effettivamente le esigenze, perché dopo loro hanno il classico errore degli innovatori, che è quello del timing, cioè pensano che il mercato sia in grado di fare già delle cose che in realtà non è in grado di fare. Quindi bisogna cercare di avvicinare i due punti. Di creare maggiore realismo in chi innova, no, se ho ben capito, realismo e concretezza, e invece capire che per il lato imprese non è comprare un nuovo software, non è comprare un nuovo prodotto, non è digitalizzare, non è semplicemente ammodernare come comprare un nuovo macchinario, ma necessita, anche nei macchinari di una volta necessitava, di rivedere il ruolo del dipendente stesso, di vedere il ruolo dei tuoi collaboratori, perché no, altrimenti verrai usato in maniera vecchia. Quindi capire che un processo non è semplicemente un acquisto, un'operazione che apri e chiudi e così hai finito la digitalizzazione dell'azienda. Bene, in bocca al lupo anche agli studenti di quest'anno, in bocca al lupo a tutti voi, lo facciamo a tutti gli studenti, e quindi anche a quelli di H Farm. Grazie al fondatore Riccardo Donadone. Adesso invece andiamo sui mercati, dove oggi si è vissuta e si sta vivendo una giornata di passione, devo dire in primis per il Nasdaq e soprattutto per il titolo Tesla. Certo che a casa nostra, con il petrolio che ha perso l'8%, va male anche Eni, meno 3,30%, Saipem meno 2,50%, e non va bene Unicredit meno 3,70%, Tenaris meno 3,40%. Tenaris si lega molto al settore petrolio, perché costruisce, diciamo, anche le condotte, diciamo così, le pipelines. E male anche Exor meno 2,90%. Però insomma la brutta giornata, meno 1,80% per Milano, meno 1,60% per Parigi, meno 1% Francoforte, meno 2% quasi il Dow Jones, è stata aperta, diciamo, dal Nasdaq, quindi dall'indice tecnologico, e dal titolo Tesla, che noi, insomma, di cui abbiamo parlato in queste settimane, perché Musk è diventato uno dei più grandi miliardari del pianeta. Invece, Enrico Miele, sì, buonasera. Invece cos'è successo? Che a differenza di quelle che erano le aspettative del mercato, c'è stata una decisione a sorpresa da parte della borsa americana, che non ha inserito la Tesla nell'indice, nell'importante indice Standard & Poor's 500, come appunto era largamente atteso, e, visto che la società di Musk, tra le altre cose, aveva recentemente registrato il quarto trimestre consecutivo in profitto. Questo ha fatto scattare una pioggia di vendite sul titolo, che mentre stiamo parlando cede a Wall Street il 17%. Vista la capitalizzazione importante, ovviamente questo sta trascinando al ribasso tutta la borsa americana, sta trascinando a ribasso anche il Nasdaq, con gli operatori che in realtà si iniziano a interrogare se questa possa essere l'inizio dell'esplosione di una bolla, visto su che Tesla, molti titoli, o in generale sul Nasdaq. Sul Nasdaq in generale, visto che molti titoli viaggiano su quotazioni rispetto agli altri comparti dell'economia che non si vedevano dall'epoca delle prime dot-com. Sì, adesso vediamo, perché non voglio dire nulla, mi manca solo anche la bolla sul Nasdaq in questo bellissimo 2020, ma siamo pronti a tutto. Qui siamo, e nel ringraziare Enrico Miele di Radio Colle sulle 24 ore, invece le altre variazioni di borsa le darò dopo il GR24, inclusi i migliori e peggiori della seduta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da gsrisarcimentodanni.it, la forza di cui hai bisogno. State ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Focus Economia. Ciao. 8:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, mancava l'aggiornamento sulle chiusure, al di là delle debolezze di borsa. Pirelli bene, più 3,70, CNH più 1,20%. Su Pirelli abbiamo visto anche analisi di un recupero nel settore delle vendite delle auto e quindi anche degli pneumatici. Per quello che riguarda i migliori e peggiori in assoluto oggi in borsa, Tesla anche a Milano perde il 9,70%, ma ricordo che è arrivata, perdeva il 17% sul Nasdaq. Softtek meno 8%, Tiscali meno 7%, Esprinet più 12,40% la migliore, Landi Renzo più 11,50% e poi ProSiebenSat più 9,5%. Con un euro su dollaro vicino a quota 1,12 a 1,17, quindi sempre vicino a quota 1,20 sul dollaro. Il Recovery Fund, l'avvio delle procedure Recovery Fund e Recovery Plan, ne abbiamo parlato molte volte, le tappe le voglio ricordare però di nuovo. Entro il 15 ottobre il governo italiano deve mandare alla Commissione europea il documento programmatico di bilancio, cioè quello che poi diventerà la legge di bilancio e da cui poi partiranno le consultazioni formali con Bruxelles. Quella che va mandata entro metà ottobre è l'impalcatura complessiva. Poi sulla struttura definitiva si dovrà aspettare gennaio, perché vanno guardati i regolamenti comunitari, il lavoro attuativo dei regolamenti comunitari e poi le ratifiche parlamentari. Poi a quel punto, a inizio gennaio, inizierà l'esame dei piani nazionali da parte della Commissione europea e in Consiglio europeo, che da quello che ci hanno raccontato i vari commissari europei in queste settimane, il tempo complessivo oscillerà tra i 2 e i 3 mesi, quindi ragionevolmente verso fine marzo, inizio aprile, dovrebbe arrivare poi l'erogazione. Sappiamo che un 10% del complesso per l'Italia sono 208 miliardi, di cui 82 a fondo perduto di trasferimenti e 127 di prestiti. Un 10% può già essere anticipato su 2021. È iniziata a circolare una bozza, anzi delle bozze, arrivate alle regioni e agli enti locali, visto che domani vi sarà la prima riunione del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, che si chiama CAE, non CIAO, ma CAE, e quello che dovrà mettere sostanzialmente il timbro politico, via libera politico, al piano, all'architettura, al progetto, insomma, all'impalcatura complessiva con cui utilizzare questi soldi. E di questo vorrei parlare, da un lato con chi ha illustrato nel dettaglio anche la struttura che ho appena sintetizzato, e quindi Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera e bentornato, Gianni. Buonasera a voi. E grazie anche al professor Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino. Buonasera, professore. Buonasera. Con lei commenteremo anche i dati oggi congiunturali, la stima di Fitch, il commercio, l'occupazione, il calo record dell'occupazione nell'area euro nel secondo trimestre, però chiaramente anche le direttrici. Allora Gianni, tu hai parlato, se ho ben capito, di due sestine, una doppia sestina, cioè da un lato gli investimenti veri e propri che noi andremo a richiedere e che si occuperanno di transizione digitale, infrastrutture, decarbonizzazione, inclusione sociale, salute e formazione. E formazione si intende salute, appunto investimenti nella struttura sanitaria e per quello che riguarda l'istruzione, diciamo la scuola dell'obbligo, ma anche la ricerca universitaria. Poi c'è un'altra, diciamo, sestina, un'altra colonna fatta di 6 temi, tra cui la pubblica amministrazione, la ricerca, la formazione, il fisco, la giustizia e il lavoro. Prima domanda: la parte che dovrebbe assorbire la maggior parte delle risorse che arriveranno è la prima sestina, quella appunto investimenti, chiamiamola in senso lato investimenti? La prima sestina è quella che indica gli obiettivi, le mission, come si dice nella bozza, degli investimenti, dei gruppi di investimenti o cluster di investimenti, come si dice nella bozza, che si candidano al finanziamento europeo. Ma siccome, come è stato già evidente nelle trattative di luglio, i finanziamenti europei devono essere, oltre che coerenti con gli obiettivi comunitari, anche coerenti con le indicazioni di politica economica dell'Unione Europea, si devono accompagnare a una serie di riforme che a livello di Commissione ci vengono chieste da molti anni, in verità, e che noi presentiamo appunto con la seconda sestina, cioè nella prima, appunto, digitalizzazione, decarbonizzazione, formazione e così via, dovrebbero finire i finanziamenti europei, ma noi ci impegniamo anche a riformare la giustizia, la pubblica amministrazione, il fisco e il lavoro per rendere, diciamo, per fare in modo che questi finanziamenti europei vadano a alimentare un sistema più efficiente dell'attuale. Questo naturalmente, come dire, nel disegno strategico che presiede al tutto. Ecco, noi sappiamo che anche su questo poi l'Europa ha dato, diciamo, delle linee guida, per esempio investimenti verdi, digitali, transfrontalieri, perché questo si chiama appunto Next Generation EU, quindi è un piano che deve servire per i prossimi anni, non tanto solo per l'emergenza coronavirus, ma proprio per ridefinire l'ambiente competitivo ed economico europeo nei prossimi anni. Veniamo poi però al dettaglio, Gianni. Quando è che avremo, cioè entro il 15, quindi il governo cosa presenterà? Voglio essere molto concreto, dirà dalla bozza che è circolata, ho visto 30 pagine, 6 macro missioni, appunto quelle che tu ricordavi, digitalizzazione, infrastrutture, istruzione e ricerca, inclusione sociale e territoriale. C'è anche un accenno all'IRPEF, riduzione strutturale del cuneo fiscale sul lavoro tramite una riforma dell'IRPEF in chiave progressiva, con una legge delega entro fine 2020 e decreti attuativi entro 2021. L'obiettivo è raddoppiare la crescita economica e far salire l'occupazione del 10%, portando la crescita nei prossimi anni in linea con la media europea all'1,6%. Però cosa arriverà poi a metà ottobre? Per esempio, di questa sestina, tema infrastrutture o tema, diciamo, transizione digitale, non verranno già dette le opere da finanziare, immagino, per metà ottobre? No, ci sarà solo la cornice, che in verità prevede già l'indicazione di una serie di opere, tra le quali il completamento della Torino-Lione, ma i progetti specifici arriveranno dopo. L'idea è, nell'ultima parte dell'anno, tra ottobre e dicembre, fare un confronto su più piani, comunque informale, con la Commissione europea per arrivare a chiudere il recovery plan vero e proprio, quindi l'elenco dei progetti col cronoprogramma, gli investimenti, spendiamo X miliardi nel 21, Y nel 22, eccetera, eccetera, a gennaio, nella speranza che per gennaio anche le istituzioni europee abbiano fatto i loro compiti, in particolar modo abbiano chiuso e definito e approvato i regolamenti attuativi, e che nello stesso periodo tutti i parlamenti nazionali abbiano ratificato l'avvio del Next Generation, che è previsto dall'intesa del Consiglio europeo di luglio. Se tutto questo succede nei tempi, appunto, noi a gennaio dovremmo presentare ufficialmente un recovery plan, che però non sarebbe, come dire, non sorprenderebbe la Commissione, mettiamola così, sarebbe frutto di un negoziato già avviato nei mesi precedenti, in modo tale che l'esame della Commissione prima e del Consiglio europeo poi, quindi capi di Stato e di Governo, mm-hmm. non riservi sorprese. Due domande ancora. La prima riguarda l'anticipo, se ne è molto discusso, il 10%. Quindi il 10% può essere anticipato, ma sul 2021 a questo punto? Allora, c'è un tema, per dirla tecnica, di competenza e di cassa. Per dirla pratica, perché arrivino i primi soldi deve chiudersi tutto l'iter che ricordavamo prima, quindi arriveranno, diciamo, verosimilmente intorno alla metà del 2021, però questi soldi che arriveranno potranno coprire per i il 10%, una quota di spese che sono già state decise a partire dall'inizio, diciamo, della crisi del 2020. Questo ci aiuta sulla competenza, cioè sugli impegni di spesa da coprire anche per quanto riguarda l'emergenza. Ovviamente non ci aiuta sulla cassa, perché la cassa guarda il calendario e quindi deve aspettare l'erogazione effettiva dei soldi, che non può arrivare prima che si concluda tutto quell'iter che appunto ci porta diciamo orientativamente intorno al giugno dell'anno prossimo. Però diciamo tu, se ho ben capito, per competenza potrei già dire che alcuni dei soldi spesi quest'anno, cioè il 10% del totale, vengono coperti da quelli che arriveranno da Bruxelles? Sempre che siano certo, in linea. Vabbè, spese sanitarie, con gli obiettivi, in questo caso, eccetera, esatto. Infrastrutturali. Ultima domanda prima di passare al professor De Aglio. Gianni Trovati, noi abbiamo letto e detto in queste settimane e giorni che sono arrivate una marea di richieste dai vari ministeri. Ora, da un lato non ci si deve sorprendere, arrivavano anche sempre quando c'era la legge finanziaria, con molti molti meno soldi, quasi un decimo nel complesso, non un decimo perché si spammano su più anni, comunque con meno soldi arrivavano, il famoso assalto alla dirigenza. Ti risulta che siano 550 progetti e hai capito come intenda poi Palazzo Chigi scremarli? Ma sono anche di più, perché poi a quelli ministeriali bisogna aggiungere le richieste delle regioni, degli enti locali e così via. Proprio da qui nasce, come dire, l'enfasi posta dalle linee guida, che individuano una griglia certo ampia, ma insomma tutto sommato rigida. La richiesta è di accorpare gli investimenti nei gruppi, appunto nei cluster, che vengano diciamo in modo coerente con i sei obiettivi del piano, e da quel punto di vista lì la semplificazione è in parte naturale, perché molti progetti sono vecchi, sono doppioni, eccetera eccetera. E poi ci sarà appunto un esame politico tra Palazzo Chigi, il MEF, il CIAE, per come dire inserire nella griglia solo quelli prioritari. Ma proprio dal traffico, diciamo così, dei dossier, delle carte, eccetera, che si è verificato nelle scorse settimane, tra luglio e soprattutto agosto, nasce appunto questa forza data alle linee guida. Il governo dice: guardate che ci sono sei caselle da riempire con gli obiettivi che sono questi, quindi i progetti vanno incasellati per gruppi e per priorità dentro questi sei obiettivi, e gli altri invece non possono entrare in questo tipo di meccanismo. Allora, nel ringraziare Gianni Trovati, passo al professor Mario De Aglio, a cui chiedo un primo commento su quello che ha appena ricordato Gianni Trovati. Le sembra sufficiente, vista poi quello che è il cronoprogramma, cioè entro il 15 ottobre poi entro gennaio, e quale rischio lei vede, a partire da quello che molti hanno evocato di investimenti a pioggia, cioè che poi non risolvono niente perché vengono dispersi in molti rivoli? Ma secondo me dobbiamo distinguere quello che è, diciamo, la parte formale da quella sostanziale. Quella sostanziale è se poi questi soldi effettivamente si muovono o no. E bisognerebbe quindi vedere l'altra parte, che se noi siamo decisi su certi investimenti, la Banca Centrale Europea di fatto ce li presta, facciamoci chiaro. Quindi Bruxelles può approvare il mese dopo, eccetera, così va bene. Cioè, come questo, se io avessi già, mi passi la sì, come se andassi in banca e avessi comunque appunto, già vinto una commessa, appunto, diciamo, so che mi arrivano dei soldi anche, e sconto certo, quella fattura, come si dice in gergo. Anche perché, come sottolineava Trovati prima, non è che noi facciamo questo piano al buio, i rapporti con Bruxelles saranno giornalieri su come va avanti, quindi avremo un input, una reazione. Questa griglia che lui diceva è una griglia ampia ma rigida, come diceva lui, e non aveva torto. Quindi attenzione, noi proprio percepiremo che fino a un certo punto si può dare, più in là no. Però le dice, tanto anche se la data in cui arriveranno fisicamente, sì, cioè vedere cammello, non è così importante, perché una volta che sai che l'Europa ha deciso di erogare l'Italia e di finanziare quei progetti, io facevo l'esempio dell'imprenditore che va a scontare la fattura in banca, cioè dice: guarda che avrò questo incasso, prestami i soldi. Insomma, la dico male, ma per farmi capire, con la Banca Centrale Europea. Tutto questo avviene in un giorno in cui l'Unione Europea ci dice che il calo dell'occupazione è stato violento, il più forte dal 1995, quando stiamo analizzando le serie temporali, per quello che riguarda il PIL complessivo dell'area euro meno 11,8%, e anche appunto per quello che riguarda il calo dell'occupazione meno 3%. L'Italia è un po' sotto, meno 2,5%, ma sappiamo che c'è blocco dei licenziamenti. L'Istat ha abbassato la stima quest'anno a meno 10% per l'Italia, e i dati sul commercio al dettaglio nel mese di luglio vedono un calo, ma era immaginabile, dei beni alimentari, perché se, rispetto al trimestre precedente, ma soprattutto un crollo vero e proprio dell'abbigliamento meno 28%, bene commercio elettrico più 11,5%, e comunque nei primi 7 mesi le vendite al dettaglio sono diminuite dell'8,5% rispetto ai primi 7 mesi del 2019, guarda che è tantissimo sul fronte dei consumi, mentre l'online ha fatto più 28,5%. Professor Daglio, mi dà un commento anche sul quadro economico che sta emergendo? È chiaro che il dato di luglio, dovremo vedere agosto e poi settembre. Nel complesso posso dire, io in genere passo per essere pessimista, posso dire che sono un po' meno pessimista di molti miei colleghi dopo aver visto questi dati, perché li metto assieme con il fatto che ieri il ministro delle finanze francese ha detto che le entrate fiscali dell'IVA in Francia per il mese di agosto sono superiori a quelle dell'anno scorso. Il ministro dell'economia italiano Gualtieri l'altro giorno a Villa d'Este non l'ha detto, ma perché non poteva dirlo perché i dati non sono ancora usciti, ma ha fatto un giro di parole per dire più o meno la stessa cosa, cioè il quadro delle imposte di luglio e di agosto sono migliori delle nostre aspettative e nettamente migliori di quello che dicono le previsioni fatte a tavolino. Il fatto è che noi abbiamo una situazione nuova senza avere gli strumenti nuovi, quindi la misuriamo con uno strumento vecchio e quindi in molti degli aspetti non teniamo conto. Io penso che sia possibile ragionare su una caduta dell'anno a occhio compresa tra un meno 6 e un meno 9, ma non andare di là, che è quello che ha detto Gualtieri da Chernobyl. Più o meno, sì, più o meno siamo su quel, su quel giro lì, che implica un terzo trimestre in aumento rispetto a quello di prima, che comprendeva le ferie. Qui molte volte le ferie non si sono fatte, non perché non ci fossero i soldi, ma perché c'era il lavoro da finire. Questa realtà delle industrie medie e medio piccole della pianura padana e cose del genere. E poi avere anche una discreta risalita dei consumi dell'ultimo trimestre rispetto al trimestre precedente, anche se saranno inferiori a quelli del Natale dell'anno scorso. Però dovremmo essere su una strada che comincia a risalire già da subito, anzi probabilmente è cominciata. Eravamo in un abisso, adesso siamo un po' fuori dall'abisso. Naturalmente il nostro orizzonte è ancora corto e possono succedere troppe cose perché ci spingiamo molto più in là. Ma mi pare che questo potrebbe essere il sentiero a cui guardare con estrema attenzione per vedere se ci stiamo veramente sopra. Dunque, su questo lei, lo dico agli ascoltatori, parlare dell'IVA vuol dire parlare dell'attività delle aziende, nel senso che se vedi che aumenta il gettito IVA vuol dire che sono stati venduti più beni che vengono poi appunto su cui si applica l'IVA, o beni o servizi. In questo senso non è solo un beneficio per le casse dello Stato, è anche un indicatore di carattere, non lo dico agli ascoltatori, è un indicatore di carattere macroeconomico, un po' come il consumo di elettricità ti dice quanto sta ripartendo l'attività soprattutto manifatturiera. Vedi che l'IVA va meglio delle attese, in Francia è andata meglio del 2019 ad agosto, e vuol dire che ci sono stati tanti acquisti dove si è creato appunto l'imponibile IVA. Sulle cose che potrebbero andare storte, in una battuta, secondo lei è più rischioso la parte, diciamo così, virologica, cioè quanto sarà, quando arriverà il vaccino, come arriveremo a convivere anche dal punto di vista clinico, o quelle che potrebbero essere modifiche strutturali nei nostri comportamenti anche di consumo? Quindi al di là, anche quando sarà finita, speriamo nel più breve tempo possibile, l'emergenza pandemica. Ma se ho capito bene quello che impariamo giorno dopo giorno sulla virologia, e soprattutto sull'epidemiologia, eccetera, non illudiamoci che ci sia un vaccino miracoloso che di colpo viene emesso in dosi gigantesche che ci sono proprio il giorno dopo, tutti le trovano, cioè, non è così. Avremo dei vaccini parziali che aiutano certi tipi di malati e meno gli altri. Quindi quando si dice non è una battaglia che si vince con la bacchetta magica, si dice questo, che l'emergenza si attenuerà, riguarderà certe fasce di popolazione piuttosto che altre, e di lì dovremo ripartire, quindi non è una ripartenza comoda, questo è una ripartenza di quel tipo. Per quanto riguarda i nostri costumi, questi stavano già cambiando prima e questo ha subito dato solo un'accelerazione. Per esempio le vendite per corrispondenza stanno cambiando con una rapidità del fulmine, qualcosa che noi aspettavamo che cambiassero nel giro di diversi anni. Quindi è un effetto acceleratore, più 28,5% online contro un meno 8,5% le vendite al dettaglio nei primi sette mesi di carattere tradizionale. Grazie anche al professor Mario De Aglio, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata.